Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. La vittima predestinata era naturalmente Gonaria. Dopo la morte di Ciriaco, Gonaria non era stata più in chiesa. Aveva orrore di vedere la tonaca di un prete e di sentirne la voce. Tommasina attribuiva la ripresa della salute a una grazia specialissima a lei concessa e perciò si sentiva in dovere di tutelare i diritti di Dio o quantomeno della Vergine Santissima. «Volta spalle alla Chiesa! Volta spalle alla Chiesa!» urlava con la voce possente alla povera creatura che Dio aveva abbandonato più di quanto lei non avesse abbandonato Dio, seppure non è la stessa cosa. «Spalle alla Chiesa!» E la povera creatura, che ormai viveva soltanto d'aria, si rifugiava davanti alla porta della stanza dove era morto Ciriaco e di cui custodiva gelosamente la chiave. Forse Dio era rimasto là dentro. Ma le colpe di Gonaria non erano soltanto verso la religione che aveva salvato Tommasina. Da qualche tempo questa aveva ripreso a lamentarsi delle assurde ristrettezze alle quali la costringeva Gonaria con le sue 93 lire. Esse erano ricche perché possedevano la casa dove abitavano e questa era troppo grande per loro. Con un nulla si poteva affittare una stanza, quella che Gonaria si ostinava a tener chiusa da quando era morto Ciriaco. Bastava aprirla, disinfettarla da capo a fondo perché era ancora piena di microbi. Non c'era nemmeno bisogno di ammobiliarla perché non mancava nulla. Gliel'avevano tutta rinnovata quando gli avevano dato il cordone rosso. Che cosa si aspettava? Erano almeno 40 lire di rendita che si aggiungevano alle misere 93. Gonaria intuì subito il pericolo e si rannicchiò tutta per la difesa. Nessuno sarebbe mai entrato in quel santuario finché lei fosse viva. Disse che avrebbe lasciato le 93 lire alla sorella. Lei non avrebbe più mangiato che una fetta di pane e nemmeno tutti i giorni. Tanto da qualche tempo provava una stretta alla gola che le impediva di mandare giù il cibo. Ma Tommasina non lasciava la preda. Non si trattava di mangiare. Le 40 lire rappresentavano una rendita, quindi un segno della ricchezza della quale aveva nutrito la sua fantasia. E poiché il suo fisico sanguigno la rendeva estroversa, cominciò a dire a tutte le donne del vicinato che avevano ripreso a frequentare la casa che Gonaria era pazza, lasciava lei nella miseria dopo aver voltato le spalle alla chiesa. Solo una pazza poteva tener chiusa una stanza che poi era anche sua per 10-15 anni. E quelle donne le davano ragione, e poiché anch'esse parlavano in giro e spargevano i lamenti di Tommasina per tutta Nuoro prese a darle ragione. Si intromise anche il vescovo, che però non era Monsignor Canepa e perciò non aveva conosciuto canonico Sanna. Mandò il segretario a convincere Gonaria e questi si trovò davanti un essere così piccolo che non capì come potesse aver sollevato tanto scalpore. Ma non tardò ad accorgersi che quelle membra minute custodivano una volontà insormontabile. Radicata non intendeva se nella speranza o nella disperazione, e tornò dal superiore dicendo che si aveva comunque a che fare con una pazza. E così il vescovo non ci pensò più. Gonaria era pazza, ma non tanto da non capire che il destino era segnato. Dietro la benda bianca il suo cervello lavorava. Ci sarebbe voluto un angelo con la spada fiammeggiante per proteggere quella porta. Ma neppure lui ci sarebbe riuscito di fronte ai bisogni degli uomini. E poi, se quel Dio che aveva perduto fosse rimasto davvero lì dentro, immune dalle vicende del tempo, se aperta la porta fosse rientrato in lei. Si sorprese più volte a pensare così. Invecchiava, sebbene il tempo non lasciasse traccia sulla sua persona, e forse si sentiva stanca di vivere senza colui che aveva sostenuto la sua pura giovinezza. Ed era ad ogni modo l'inizio della capitolazione. Seduta sul letto, ascoltava i rumori della notte nuorese. Da quando aveva smesso di pregare, passava le notti così, senza dormire, senza nemmeno spogliarsi, come nell'attesa di una improvvisa chiamata. Quella che stava vivendo poteva essere l'ultima della sua vita. perché l'indomani doveva aprire la porta. Dalle esortazioni erano passati alle minacce ed era chiaro che non poteva più resistere. Attendeva ancora dalla notte qualche arcano messaggio. Chissà, il canto di un uccello che nella sua superstizione potesse interpretare, il vagito di un bimbo che la portasse fuori del tempo, il rotolare di un carro che le desse il coraggio del suo cammino. Fantasticherie di una derelitta che non si arrende alla necessità, che dimentica che la notte è la conclusione del giorno, e se il giorno è stato crudele, anche la notte non può che covare la crudeltà nelle sue ombre. Il primo messaggio, ma ella non poteva capirlo, le venne nelle prime ore dalla strada. Era come se un esercito in fuga passasse scalpitando sul selciato. Non una voce, non un grido rompeva il silenzio che il crepitio dei passi rendeva più cupo. Che cosa potesse essere avvenuto in un'ora in cui i nuoresi se ne stanno chiusi al caffè o nelle bettole a finire o a cominciare la sbornia? Si affacciò tremando alla finestra. Qualcuno, concitatamente, gli disse che era morto Maestro Manca. Gli ultimi mesi, il terrore che egli aveva della morte si era fatto più acuto. Teneva il dito sempre posato sulla vena turgida della tempia e non poteva reggersi senza un bicchiere di vino in corpo. «Portantina che porti quel morto!» Il canto lugubre che i giovinastri intonavano quando appariva lo faceva impazzire. Per sottrarsi alla beffa, quella sera si era rifugiato in una bettola di San Pietro e là, mentre tendeva la mano tremante verso il bicchiere, era scivolato dalla sedia sotto il tavolo. Se avesse potuto immaginare che morire era una cosa così semplice. Come un fulmine la notizia si sparse per tutta Nuoro. Entrò nel caffè Tettamanzi e interruppe le partite a 3-7. Entrò nelle bettole e raggelò il sangue e il vino nelle vene dei bevitori. Entrò nelle case dei ricchi e dei poveri, di tutti coloro che avevano in vita giudicato il maestro. Subito cominciò la grande cavalcata per le strade deserte. Corsero a San Pietro e non lo trovarono. Corsero al cimitero e non c'era nessuno. Corsero all'ospedale. Lì lo trovarono deposto su una brandina di ferro in una camera vuota come un magazzino e là se ne stava immemore di sé, liberato finalmente dal vizio. 100.000 occhi lo fissavano impauriti, come se Peduzza si fosse sottratto al gioco e col mistero della sua morte avesse posto ciascuno davanti al mistero della sua vita. Portantina che porti quel morto. Gonaria era tornata sul letto e si perdeva negli anni lontani in cui aveva iniziato con tanta gioia la scuola. Maestro Manca era allora giovane anche lui. Aveva un pizzetto che finiva in una specie di anello, gli occhi glauchi, irridenti. Era già piccolo e tondo e allora gli fu imposto per sempre il nomignolo di Peduzza. Ma era gaio e si divertiva a pizzicarla per la sua vocazione monacale. «Butta alle ortiche il soggolo e parlami d'amor», poetava in italiano, perché ancora non aveva preso il vizio del bere. E lei se ne sentiva lusingata se su quel letto ricordava i ridicoli versi di una giovinezza che forse non era mai esistita. Dopo era avvenuto quel che era avvenuto e ora Maestro Manca giaceva inerte sul lettino dell'ospedale come lei giaceva sul suo. Quale messaggio le veniva da quel peccatore? Entrambi avevano distrutto per vie diverse la loro vita e non vi era né meglio né peggio nella vita dell'una e dell'altro. L'approdo era il nulla, il vuoto, la speranza di morire. C'era solo quella chiave che palpava nella tasca e alla quale si aggrappava come a un'ancora. Forse essa custodiva il segreto per lui, per Maestro Manca, per tutti. Farneticava nella mente indebolita. La notte pareva aver riassorbito nel suo silenzio quel moto improvviso, quando dalla cima della strada le giunse l'ululato di un cane. ma non era un cane, perché avvicinandosi il grido si articolava in parole sconnesse, diventava un lamento di creatura umana. Il lamento si incanalava giù per la via, ma non destava echi intorno. Nessuna finestra si apriva, nessun passo risuonava sul selciato. Si sapeva di che cosa si trattava. Vi ricordate di quella Gigia che da giovane bella era stata l'amica dei tagliatori di foreste che venivano dal continente e la facevano servire nuda a tavola? Ho anche raccontato che vecchia e sola faceva la prostituta a San Pietro, senza accorgersene. Ed è la verità. Distrutti i boschi e partiti quei signori, Gigia non aveva altra scelta che continuare in pubblico la via che aveva iniziato in privato. Ma se il timore riverenziale verso i padroni si rifletteva su di lei e la rendeva rispettata e forse invidiata, abbandonata a se stessa, diventò il ludibrio di tutta Nuoro. Bisogna dire che è difficile fare la prostituta a Nuoro senza diventare pazza. Infatti Gigia, con l'andare degli anni, parve perdere la coscienza di se stessa. Gli scapoloni del caffè Tettamanzi, che magari in un primo tempo erano andati a sfogarsi con lei quasi raccogliendo la successione dei continentali, nel vederla così svagata e smarrita quando docilmente prestava il suo corpo, le avevano creato un motto che aveva fatto fortuna. La chiamavano Gigia puttana di 15 anni senza malizia. Essi non potevano naturalmente immaginare la profonda verità che si nascondeva in questa frase. Ridevano e tutta Nuoro rideva con loro. I giovinastri e persino i ragazzi le correvano appresso gridandole quelle parole, ma lei non si accorgeva di nulla. Pian piano invecchiò, si coperse di piaghe, diventò uno spettro orrendo a vedersi, ma era sempre una donna. E poiché lasciava la porta aperta, gli avvinazzati notturni entravano e la possedevano nel sonno. Chi se ne ricordava lasciava 2 lire in una scodella sul comodino. Ora Gigia, la puttana senza malizia, abitava in un antro privo di finestre, privo di ogni cosa, ma che aveva per lei un immenso valore perché la riparava dalla pioggia e dal vento, le consentiva di sentirsi viva, di sentirsi lei, anche nella sua infinita miseria. Se non che quest'antro, come tutte le cose di questo mondo, aveva un padrone. E il padrone era un illustre avvocato che, pur avendo molti beni al sole, si professava socialista. Ma socialista o non socialista, padrone vuol dire che la casa o l'antro è suo e chi ci sta dentro deve pagare l'affitto. Gigia non sapeva neanche cosa fosse un affitto, né ricordava come fosse entrata nell'antro. Così un giorno si vide arrivare un foglio con tanto di bolli e di timbri e lei lo pose sul comodino, anche per la buona ragione che non sapeva leggere. Poi gliene arrivò un altro e poi un terzo, che fecero la stessa fine. Non poteva del resto neppure immaginare che l'avvocato avesse bisogno dell'antro. E così avvenne che alla fine capitarono in casa una persona che brandiva un altro foglio e 2 facchini che, senza dirle né come né perché, portarono il letto, il comodino, le altre povere masserizie sulla strada, chiusero la porta con un lucchetto e se ne andarono. Gigia non doveva essersi resa conto di quello che era avvenuto, tanto che si sedette sul letto come in attesa. Stare all'aperto o nell'antro non faceva molta differenza, ma quando cominciò a calare la notte e vide la porta chiusa, si sentì circondata dall'immenso vuoto del mondo ed ebbe paura. Disperatamente si aggrappò al lucchetto cercando di sradicarlo, ma neppure le porte della prigione vicina erano così salde. Allora si disperò, pianse con la testa affondata sul lurido cuscino. Poi improvvisamente si alzò come un automa e, avvolta nei pochi stracci, iniziò il suo pellegrinaggio per le vie deserte di Nuoro. Senza una meta scese ululando per le viuzze di San Pietro, imboccò il corso che si era fatto deserto, passò davanti al caffè Tettamanzi, dove i clienti si erano ritirati all'interno perché si sentiva già la frescura. Solo Giovanni Maria Musiu si affacciò alla porta, ma vedendo Gigia si vergognò perché era stato uno dei suoi clienti e subito si ritrasse. «Cosa hanno fatto di me stanotte?» mugolava. «Mi hanno rovinato, mi hanno portato via la casa. Carabinieri, aiutatemi. Io sono morta». L'urlo batteva contro le finestre chiuse e i nuoresi si rivoltavano nel letto. «Aiuto! Aiuto! Mi hanno uccisa stanotte!» Il lamento della prefica gravava sul nuoro come una cappa di piombo. Gigia avrebbe fatto bene, invece di errare per le strade, ad andarsene al cimitero e scavarsi la fossa con le sue mani. Tanto là doveva arrivare. Intanto fu il suo ululo, incanalato per la stretta via, che Gonaria ascoltava seduta sul letto. Era il secondo messaggio che la notte le recava. Se fosse scesa, avesse aperto la stanza chiusa da 20 anni e avesse messo dentro quella sventurata. Ma queste cose non si possono neppure pensare. Forse le avrebbe fatte quell'ubriacone di canonico Mocci. Le mani strette intorno alla testa avvolta nella benda bianca, Gonaria aveva però ancora tanta ragione da capire quel che Gigia, la puttana senza malizia, le diceva col suo grido. Non si trattava della cattiveria umana, non si trattava dell'avvocato socialista che forse ora dormiva tranquillo, lui o un altro sarebbe stato lo stesso. Era il senso dell'ineluttabile che quella povera donna esprimeva. Quel che deve avvenire avviene, senza rimedio, senza che Dio ci possa far nulla. L'indomani avrebbe aperto la stanza e si sarebbe compiuto il destino. Accovacciata davanti alla porta, aveva preteso che Tommasina si ritirasse nella stanza da pranzo, stringeva la chiave nella piccola mano e dondolava il corpo, reso diafano dal perpetuo digiuno, col ritmo delle donne nelle veglie funebri. Quante ore erano passate, quante ore passavano nella sua solitudine. Ammettendo che non fosse pazza, è certo che la posta era grande. 20 anni prima, essa aveva fermato il tempo nella stanza e nell'ora in cui era morto Ciriaco. Rivedeva le cose una per una, così come le aveva disposte: il cuscino, il breviario, il cappello col cordone rosso. Tutto era lì, di là. Ma fermare il tempo vuol dire fermare Dio, eternarlo in uno degli infiniti momenti in cui si scompone la vita. Questo era il suo terrore e la sua speranza, che quel Dio al quale aveva affidato tutta se stessa e che in un momento si era crudelmente ritirato da lei fosse rimasto di là, così che egli, aperta la porta, fosse rientrato nella sua anima e tutta la pena di questi anni fosse stata un sogno. La paura, più che la speranza, l'avevano spinta all'assurda decisione di tener chiusa la porta, e così sarebbe rimasta se non le avessero fatto violenza, se Tommasina, che aveva Dio in sé, l'avesse lasciata tranquilla. La verità si sarebbe saputa dopo la sua morte, che ormai non doveva essere tanto lontana. Invece, il campanile di Santa Maria batté le ore. Doveva essere pomeriggio inoltrato perché le ombre intorno si facevano più lunghe. Aveva rifiutato ogni cibo, non aveva voluto neppure quella tazza di caffè che era diventata il suo sostentamento. Bisognava decidersi, perché da un momento all'altro poteva comparire Tommasina o qualche vicina e riempirla di vituperi e magari strapparle la chiave. Lentamente si alzò, mettendo le ginocchia per terra, come in un improvviso assalto di preghiera. Poi trasse la chiave dalla tasca della gonna e l'infilò nella toppa. Un odore di chiuso, che le parve un odore di morte, le ferì le narici, che aveva delicatissime. Corse affannata alla finestra dalla quale filtrava una luce polverosa e cercò di aprirla. Le imposte resistettero, quasi fossero inchiodate. Si voltò allora, gettò lo sguardo intorno e la prima cosa che vide fu un nido di topi scavato nella coperta del letto, che aveva ospitato chissà quante generazioni nel corso degli anni. Avrebbe lanciato un grido acutissimo, perché aveva orrore di tutte le creature che vivono nelle tenebre, se non avesse temuto di far accorrere gente. Si avvicinò al letto. Del breviario non restava che qualche frammento del dorso, ma il letto stesso si reggeva in bilico, perché come si appoggiò cadde senza neppure uno scricchiolio. I tarli, indisturbati, avevano divorato il legno dell'interno. Qua e là apparivano quei piccoli fori che sono l'ingresso alle loro sterminate catacombe. Dal soffitto a volta pendevano grappoli di ragnatele che parevano morte. I fiori con la Madonna sotto la campana di vetro erano polverizzati e sulla parete a brandelli non restava quasi nulla, appena un'ombra del ritratto del canonico che già guardava così fiero. Resa muta dal terrore, volse l'ultimo sguardo all'armadio dove aveva appeso con religione il cappello dal cordone rosso. Attraverso l'anta sgangherata non appariva più nulla. I topi, le tarme, chissà cos'altro, avevano divorato tutto. Restavano in mezzo alla polvere alta due dita, pochi fili intrecciati, a testimonianza di un passato che poteva anche non essere mai stato. Allora si rese conto che la posta era perduta. Uscì lentamente dalla stanza, chiuse la porta lasciando infilata la chiave nella toppa e scese le scale. L'idea della fuga si era impadronita della sua mente. Non era più possibile restare nella casa dove Dio era morto. Quando fu nella strada si trovò come un cane senza padrone. A fianco della casa c'era un antico frantoio di olive. Il rumore calmo della mola, la voce sommessa dei padroni e dei servi avevano un tempo accompagnato e quasi scandito le sue estati notturne. Solo nelle grandi notti invernali, quando il lavoro era al colmo, si udivano i cori dei borghesi che si davano convegno per mangiare il pane intriso nell'olio appena stillato. Ma non le davano disturbo, anzi aiutavano le sue esaltazioni, perché il frantoio col cavallo che girava facendo ruotare la grande pietra tra gli uomini intenti al lavoro nel lume di una lucerna le dava l'idea del presepe. Due donne che si erano affacciate alla porta la videro passare, ma non dissero niente. La seguirono a lungo con gli occhi, la fiscella tra le mani, finché disparve oltre il corso che attraversò con la testa bassa. Il viottolo dalla parte opposta, quello per intenderci dove c'era il negozio mezzo bettola e mezzo caffè di Marianna Secchi, si divideva in due rami. Uno portava alla chiesa, l'altro a un dedalo di viuzze che sboccava in aperta campagna. Si infilò in quest'ultimo, brancolando come una cieca, e finalmente si trovò in una larga strada bianca che precipitava con stretti giri nella valle. La riconobbe subito, anche perché non aveva visto molte strade nella sua vita. Era quella che portava al mare, a Orosei, a Gonone, a quella villa dei Mariani che era rimasta nella sua mente come una favola o un sogno. Si sovvenne che ai piedi c'era una spiaggia dalla sabbia così bruna e fine che la chiamavano Palma di Seta. Le parve di aver trovato in tutta la terra un punto verso il quale incamminarsi. Non pensò che era una distanza immane, qualcosa come 30 chilometri, e si incamminò verso la discesa come appresso a un miraggio. L'importante era non voltarsi indietro. Sulle prime, la vita pareva accompagnarla nel cammino. I carri, i buoi, gli uomini che avevano chiuso, tornando dagli orti nella vallata la loro giornata, avevano lasciato le loro tracce. Domani sarebbe stato per loro un altro giorno. Poi, improvvisamente, la solitudine.